Linee d'ombra di Matteo Caccia. Il rapportarsi con delle persone di questo tipo era del tutto nuovo, sicuramente un approccio completamente diverso da quello a cui siamo abituati normalmente quando facciamo lezioni. Il corso viene un poco rimaneggiato. Di solito sono 2 ore e mezza che filano liscia in un asilo o una scuola, ma anche i carcerati, seppur a distanza, sono padri, nonni o zii. Storie di un gruppo di allievi particolari e di una ragazza cresciuta col karaoke in una puntata che si intitola Rompere le barriere. Perché sono salito quassù? Chi indovina? Per sentirsi alto. No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio? È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore, considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice: molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale. Guardatevi intorno. Ecco così, bravo Frischi, grazie, sì. Osate cambiare, cercate nuove strade. Probabilmente uno dei film più utilizzati da un punto di vista delle citazioni quando si parla di avere voglia di guardare il mondo da un'altra prospettiva. È L'attimo fuggente, ovviamente, Robin Williams, meraviglioso insegnante di quella scuola che era così irrigidita dalla sua tradizione, con questo insegnante che faceva salire sul tavolo, sulla scrivania, sui banchi i propri allievi per dire: guardate da un altro punto di vista, cercate di cambiare, osate cambiare. Aveva stravolto la loro vita, e devo dire in parte anche le nostre. Lo ricordo benissimo la prima volta che vidi questo film, ero un ragazzino e ne rimasi letteralmente folgorato. Poi dopo questo film visto al cinema tornai al liceo scientifico Alessandro Antonelli di Novara e poi la vita rimane la stessa, cioè rimane la stessa con i tuoi insegnanti, con i tuoi compagni e con la vita normale. Però le storie, le grandi storie, esattamente come quella di questo film, ti rimangono attaccate da qualche parte. E noi vi raccontiamo 2 storie, 2 e più in realtà, ma quelle da cui partiamo per il titolo della puntata di oggi, che è Rompere le barriere, sono 2 storie che raccontano 2 episodi molto diversi tra di loro. Il primo è quello di un uomo che fa lezioni di primo soccorso e che va a prestare questa lezione non dove la fa abitualmente, nelle scuole, negli asili, ma in un carcere. E non so se siete mai entrati in un carcere, ma è una sensazione fisica molto strana. Io l'estate scorsa sono stato per 5 volte in un carcere a Torino, in un carcere minorile e in un carcere per adulti, per raccontare delle cose legate alle storie, legate alla letteratura, legate ai libri, ed è stata un'esperienza traumatica da una parte, devo dire, quella con i ragazzi nel carcere minorile, ed è stata straordinaria invece nel carcere adulti alle Molinette di Torino. C'era un'attenzione tra di loro che probabilmente non ho mai avuto da nessun pubblico, c'era una voglia di sapere delle cose, una voglia di imparare delle cose nuove, meravigliosa. Ed è una sensazione, vi dicevo, fisica, proprio perché quello che accade quando entri è che ti chiudono le porte alle spalle, cioè tu sei chiuso dentro esattamente come lo sono loro. E si racconta di questo in questa storia, si racconta di come possa cambiare, si possa rompere quella barriera che si ha, spesso ideologica e spesso preconcetta, legata ad esempio a delle persone che sono chiuse in un carcere. La seconda storia invece va da un'altra parte, racconta di una famiglia che per vivere fa il karaoke, una famiglia in cui il marito è di origini italiane, e dopo un evento tragico la figlia, che è la vera protagonista di questa storia, è quella che la racconta, ci racconta come è riuscita lei a rompere le barriere, in questo caso proprio grazie al canto. Vi ricordo però che da ormai qualche giorno abbiamo cominciato a raccontare delle storie di ripartenza, i vostri diari di questa ripartenza. La vita sta lentamente tornando, non dico alla normalità, ma sta tornando a riprendersi i suoi spazi, e quindi raccontatecela come siete usciti di casa la prima volta, raccontateci com'è poter andare al parco, raccontateci com'è se magari vivete in una regione che ha la fortuna di avere il mare, ad esempio, com'è stato ripartire e andare a fare un salto al mare. Insomma, i vostri diari di ripartenza, lineedombra@radio24.it. noi riprendiamo e ci facciamo un'intera puntata, costruendola ormai, come sapete, a blocchi di storie, una addosso all'altra. E cominciamo così, cominciamo dalla prima storia. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Quando inizio a sentirne parlare in ufficio, la curiosità per un corso da tenere in un posto così insolito mi prende da subito. Unita al fatto che ho un corso in programma in una mattina di un giorno in settimana, quando è meno facile trovare istruttori volontari disponibili. Non è neanche lontano, una mezza giornata sottratta al lavoro e poi si rientra in ufficio. Finisce così che comunico la mia disponibilità a partecipare alla formazione di salvagente prevista all'interno del carcere di Bergamo. Viene creato il consueto gruppo WhatsApp per le informazioni del caso e una mattina di gennaio del 2019 ci troviamo fuori dalla casa circondariale di Bergamo. Quello che ora più che mai mi sembra un non luogo, cioè uno spazio fisico definito, spesso ben visibile all'interno della nostra città, ma che rimuoviamo dal nostro pensiero, negandone inconsciamente l'esistenza. Come se la vita, al di là di quelle mura, avvenga in un universo parallelo, così lontano dal nostro quotidiano. Siamo in sei a suonare al portone d'ingresso. Una comitiva un po' particolare rispetto al solito, con le nostre divise blu da istruttori e le sacche con i manichini e il poco materiale didattico ammesso. La burocrazia e la sicurezza del carcere prevedono vari passaggi intermedi, contrassegnati da controlli, documenti, firme, suggellati sempre dalla presenza di guardie penitenziarie e dal risuonare delle porte che si chiudono a chiave alle nostre spalle. Si avanza lasciandoci dietro mura di cemento e porte di acciaio, in un progressivo allontanamento dal nostro mondo. Personalmente non ero mai stato in carcere, come gruppo eravamo un gruppetto di istruttori, eravamo proprio fondamentalmente al primo impatto con il mondo del carcere. Mi ricordo che quella mattina ci siamo trovati davanti al parcheggio del carcere di Bergamo con le auto. E, ecco, proprio la visione di vedere di fronte a sé il muro, il cancello del carcere e valicarlo, proprio ci ha dato questa idea di uscire dal nostro mondo e entrare in una realtà su un terreno completamente sconosciuto. E con un pochino, non dico di ansia, ma sicuramente, ecco, c'era un po' un carico di preoccupazione per quello che riguarda la sicurezza, dispositivi di sicurezza, le regole comportamentali che ci avevano ripetuto più e più volte rispetto a quello che doveva essere detto e non detto ai carcerati. Mentre entriamo nel carcere, mi viene in mente quando entrai una tarda sera di qualche anno fa nell'hospice dove stava finendo di vivere la madre di un mio carissimo amico. Un senso di oppressione che ti colpisce allo stomaco, ti schiaccia, ti risucchia la vita. Qui in carcere la sensazione è diversa, ma allo stesso tempo molto molto simile. È come se ti spogliassero man mano che entri, togliendoti passo dopo passo gli oggetti che ti legano al mondo esterno. Arriviamo finalmente nella sala cinematografica del carcere, uno spazio che mi fa pensare ai cinema degli oratori, con le file di sedie in legno con la ribaltina, abbinato allo standard edilizio dello Stato italiano, in economia, con poca manutenzione e tante slabrature. Arriva l'educatrice dell'associazione che ci ha coinvolto in questo progetto. Qualcosa nella comunicazione interna non è andato proprio bene. Saranno purtroppo pochi i reclusi che parteciperanno al corso, ma ormai siamo dentro. La consegna è molto stretta e chiara. Non possiamo chiedere nulla ai carcerati sul perché sono finiti lì dentro. Dobbiamo parlare poco, insomma dobbiamo limitare al massimo gli scambi. Alla chetichella, un po' in ritardo, arrivano tutti. Alla fine saranno una dozzina i reclusi che siedono all'inizio divertiti, guardando questi sei strani esterni, accompagnati dai manichini dilattanti e di bambini. If you're driving through the country on a lazy afternoon, or you're watching your children playing after school, they seem to be have to take care of. We've got to do something, yeah, to save the children. Il corso viene un poco rimaneggiato per adattarlo al luogo in cui viene fatto. Di solito sono 2 ore e mezza che filano via lisce in un asilo, una scuola o davanti a gruppi di genitori o babysitter, ma in effetti, anche se sta in carcere, l'argomento non è così lontano. Sono pure loro, a distanza, padri, nonni o zii. E così parlare di percezione del rischio, di sicurezza, di prevenzione degli incidenti e di ostruzione delle vie aeree diventa qualcosa di interessante, perfino sorprendente per loro. Pure le guardie penitenziarie, i nostri angeli custodi che all'inizio stavano un po' in disparte a controllare, si avvicinano, si fanno più attenti. La lezione viene tenuta da altri istruttori, io sto seduto ad ascoltare, ma soprattutto ad osservare questo insolito auditorium. Ma quando arriva la parte pratica, in cui si insegna con i manichini ad effettuare le manovre di disostruzione, ci mettiamo tutti all'opera. E quel poco di diffidenza e distanza che ancora restava tra noi e loro si sfalda e scivola via in un attimo. Spieghiamo quasi a tu per tu le manovre, le mostriamo e poi facciamo lavorare i carcerati con i manichini sotto la nostra supervisione. E mentre provano, ecco che iniziano a raccontare, a dirti che a casa hanno una famiglia, dei bambini o dei ragazzi, che non pensavano quanto importante fosse conoscere la manovra di Heimlich, che uno può soffocare perfino in carcere, e allora saper intervenire subito può salvare la vita delle persone intorno a noi. La morale è proprio quella di scoprire che alla fine non c'è niente di diverso tra noi e loro, tra virgolette, tra noi detenuti. C'è una stessa umanità. Che poi ovviamente si porta dietro errori e storie anche brutte, però la facilità con cui ci siamo rapportati e diciamo che ci siamo anche rapportati molto oltre quello che erano fino alle prescrizioni che ci avevano dato, nel senso che sono stati gli stessi detenuti a spiegarci, a dirci che cosa avevano fatto, noi dovevamo invece non fare nessuna domanda. Con questa apertura ci ha proprio scoperto questa umanità che esiste, che però di solito cerchiamo di evitare, di non considerare. Ormai sono saltate le barriere iniziali e te le raccontano loro perché sono finiti dentro, e che sia traffico di droga o omicidio, che abbiano capito di avere sbagliato o meno, che vogliono veramente cambiare vita una volta fuori oppure no, ti rendi conto che alla fine non siamo tanto diversi. Capisci che il carcere non li ha trasformati in non persone, che dietro ogni loro storia c'è comunque un essere vivente e una vita. Capisci che per quanto siano mostri, assassini, spacciatori, sono esattamente uomini come noi. Così che nei pochi minuti che rimangono ci si trova a chiacchierare tranquillamente, recluse, guardie e istruttori, come alla fine di ogni corso. E mi sorprendo nel vedere che la vita scorre anche all'interno di quello che era per me un non luogo. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve. The blame on me. Si intitola Rompere le barriere la puntata di oggi e la storia di Paolo è abbastanza esemplare, anche la prossima, anche se sono storie diverse, come sapete, cerchiamo di tenerle insieme per un piccolo punto di contatto e ci piace che una storia illumini l'altra di una qualche strana luce. Paolo è un amico di questo programma ed è anche un amico personale ormai, ci siamo conosciuti come spesso è accaduto perché ci mandava delle storie molto belle e poi ci siamo incrociati anche per la sua attività, anche esattamente per l'attività che fai, che racconta nella storia. Tra l'altro, se siete proprio super super attenti di Linee d'Ombra, lui giusto qualche mese fa lo abbiamo convocato in onda proprio per chiedergli un parere riguardo alle tecniche di ricostruzione, il primo soccorso, eccetera eccetera, quindi è un grande piacere averlo di nuovo qui con noi. Pronto, ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno Matteo, ciao, ben trovato. Senti, tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Sì. Tutto bene. Sopravviviamo in questa fase di Covid-19. Certo. Senti, io vorrei andare direttamente alla storia perché vorrei capire innanzitutto quanto tempo fa accadeva questa storia. Allora, questa è accaduta un poco più di un anno fa, gennaio del 2019. È stato un corso che ha avuto sui tempi di maturazione, nel senso che c'è stato un po' di lavoro dietro le quinte che è stato fatto da una collega per cercare di arrivare appunto a organizzarlo a Bergamo in carcere. Se ti ricorda un attimo, Paolo, a me e a tutti gli altri, esattamente che cosa fai, che cosa fa l'associazione? Allora, io sono un formatore, sono un istruttore di primo soccorso, rianimazione, tecniche di disostruzione, e faccio parte anche di un'associazione che si chiama Salvagente Italia, che lavora molto sulla prevenzione degli incidenti con un focus nell'ambito pediatrico e della rianimazione cardiopolmonare. Senti, in questo caso la sensazione era stata veramente quella di all'inizio di una sorta di barriera tra voi e loro che poi viene rotta immediatamente. Cioè, cos'è stata? È stata una questione psicologica o fisica, proprio di prossimità fisica che a un certo punto ha lasciato andare gli ormeggi e finalmente vi siete trovati, come dire, in un unico luogo, in un'unica stanza, in un unico mondo? Ma all'inizio no, direi che era soprattutto psicologica, fisicamente non tanto, se non per il fatto che ce l'avevano un po' creata mentalmente, perché ci avevano dato tutta una serie di direttive, non fare domande, non state curiosi, certo. Tenete le distanze. In realtà poi la cosa si è sviluppata in maniera del tutto naturale, cioè tutte queste barriere sono cadute, anche perché sono stati questi detenuti a mettersi in relazione in maniera molto amichevole, in maniera molto naturale, come se fossero persone che conosci in strada tutti i giorni. Senti, come funziona? Chi è che vi chiama? I privati, associazioni, aziende, comuni? Come funziona? In generale o per in questo caso particolare? No, in generale, cioè come lavorate? Poi... Sì, ma in generale, guarda, noi lavoriamo intanto molto sui social, Facebook, Instagram, e anche perché Salvagente è diventato, diciamo, è attualmente il secondo ente di formazione in Italia nell'ambito delle manovre di disostruzione, quindi è, diciamo, un certo eco, ma sicuramente okay. Si passa molto attraverso la richiesta delle scuole, degli asili soprattutto. In molti casi si tratta anche di incontrare per la strada persone che magari fanno un percorso di amministrazione nei comuni, sono persone, come dire, illuminate, che vedono lontano e che pensano che sia importante investire sulla formazione. Però molto arriva anche dal mondo delle aziende, perché spesso le aziende, al di là dei corsi che devono fare obbligatoriamente, soprattutto le multinazionali, capiscono l'importanza di offrire dei corsi per la sicurezza delle persone, al di là di quello che poi tu devi fare in azienda perché è obbligatorio. Certo, anche perché c'è una forte ricaduta dal punto di vista sociale. Senti, invece Paolo, non posso non chiederti come sta andando in questo periodo. Immagino che siate fermi perché la prossimità fisica in questo momento è un problema, giusto? Sì, oggi, diciamo, in questi giorni noi festeggiamo, tra virgolette, il terzo mese di blocco completo delle attività, che vuol dire che per chi fa formazione, in questo caso per un'associazione che finanzia i progetti in Italia e nel mondo attraverso i corsi vuol dire aver stoppato appunto tutta l'attività di finanziamento di progetti, e questo ha un impatto pesante anche sulla sopravvivenza dell'associazione. Il fatto è che la formazione è uno di quei pochi ambiti che sono rimasti ancora come attività sospese da parte del governo, e questo ovviamente ha un impatto rilevante, anche perché in termini di incidenti domestici che si stanno verificando dopo che c'è stato il virus, le statistiche dicono che c'è stata un'impennata di incidenti, purtroppo spesso anche molto tragici, e questi potrebbero essere effettivamente molto molto limitati con un gran lavoro di prevenzione che passa attraverso la formazione. Paolo, ci sono delle percentuali che dicono che se c'è qualcuno accanto a te durante un attacco cardiaco le possibilità di sopravvivenza sono molto più alte? Avete dei numeri? Sì, assolutamente. Tu tieni conto che ad oggi, grosso modo, il 2% degli italiani che hanno un arresto cardiaco riescono a sopravvivere senza conseguenze cerebrali. Se solo ci fosse vicino alla vittima qualcuno che sa fare una rianimazione, quindi inizia a fare un massaggio cardiaco, lì le percentuali di sopravvivenza aumentano al 30%. Se in più ci fosse un defibrillatore, quindi l'unico oggetto che fa ripartire il cuore, il ritmo defibrillabile, le percentuali arrivano al 75%. Wow. Ad oggi la media italiana è il 2%, quindi con 200 vittime al giorno vuol dire tanto. Vuol dire tantissimo. Paolo, ti ringrazio davvero moltissimo, devo salutarti, ma insomma spero davvero che riparta tutto, perché e soprattutto... Insomma, personalmente noi siamo già d'accordo che voglio organizzare un corso per tutta la famiglia, quindi ci sentiamo non appena è possibile. Paolo, davvero, in bocca al lupo per tutto e grazie ancora. Viva il lupo, grazie Matteo. A presto, ciao. Grazie a Paolo, alla sua storia, e grazie anche per averci ricordato quanto è importante fare prevenzione e imparare queste manovre. E io credo che davvero dovrebbe essere obbligatorio per tutti gli zii, per tutti i genitori, per tutti i nonni sapere come si effettua una manovra di Heimlich, non solo per i propri figli, nipoti o tant'è, ma semplicemente perché può capitare ovunque, dappertutto, in mezzo a una strada o a un ristorante. Quindi insomma, grazie per la storia, per avercelo ricordato. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Ciao, sono Marco da Roma, I love my radio. Ciao, sono Linda da Follonica, I love my radio. Ciao, sono Michela di Milano, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 35% di persone la ascolta per più tempo. il 43% la ascolta da supporti digitali e nella fascia 14-44 anni raggiunge l'88% della popolazione. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'ombra. All'alba dell'esplosione del karaoke negli Stati Uniti, i miei genitori possedevano e gestivano una piccola impresa chiamata Star Tracks Entertainment. Il loro slogan era Where You Are the Star, e giravano i paesi invitando le persone a cantare su un palchetto. Loro due erano una bella coppia, sempre vestita con abiti molto vistosi. Mio padre era un italiano appassionato con un ciuffo vistoso, ossessionato dall'essere troppo basso per mia madre, jugoslava, sin dal momento in cui lei gli aveva chiesto di usare un secchio come scalino prima di baciarla. Mia madre, nonostante la differenza d'altezza, era sempre in tacchi alti, sempre. Le sue gambe erano lunghe e la sua fiducia in una minigonna era indistruttibile. Grazie alla loro spavalderia, i miei genitori facevano sembrare facile cantare, senza saperlo fare davvero. Così inizia il racconto di Dina Peone, che abbiamo trovato su Narratively, riguardo al suo passato non proprio semplice, in una famiglia interamente dedita al karaoke. In una puntata che si intitola Rompere le barriere, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Papà e mamma non hanno mai imparato ad armonizzarsi per un duetto, mai. I timbri delle loro voci si sono fusi semplicemente in un suono di contralto regolare. Ciò che li rendeva davvero speciali era il loro baule con parrucche e costumi, galline di gomma e un'asta per il limbo. Papà coinvolgeva gli spettatori danzando YMCA, mentre il pezzo forte della mamma era l'imitazione sensuale di Marilyn Monroe. Non importava se un cliente si stesse sposando, compisse 16 anni o andasse in pensione. Pochi potevano resisterle. Per molti anni la Star Tracks Entertainment fece fino a 5 spettacoli a settimana, arrivando perfino sullo stesso palco di Gloria Gaynor. Io e i miei fratelli, fin da piccolissimi, abbiamo partecipato agli spettacoli, ovviamente. Aprivamo i concerti a ritmo di congas, indossando sombreri di paglia e perle. Ho iniziato a esibirmi per il pubblico all'età di 4 anni. Prima che imparassi a pronunciare il mio nome, già sapevo i testi delle canzoni e provavo le coreografie con la strafottenza di un wrestler. Simulavo di leggere ogni parola sullo schermo a tempo di musica e gli spettatori strabuzzavano gli occhi e sussurravano «Ma sa già leggere?». Gli elogi per il mio fisico di bambina ipertonica hanno contribuito a rendermi quel maschiaccio che sono diventata dalla seconda elementare in avanti. Scalavo gli alberi più velocemente dei maschi e mi vantavo di averli battuti tutti nelle lezioni di ginnastica. Niente allora mi sembrava impossibile, niente. Non sapevo nulla di musica, ma allora ero sicura che sarei diventata una stella. Questa fiducia in me stessa mi spinse in quinta elementare ad alzare la mano il giorno in cui il mio maestro aveva indicato la lavagna dove stava elencando su una colonna lavori per uomini e su un'altra lavori per donne. «Da dove viene il canto?» ho chiesto io. Lui mi ha ignorato, quindi ho gridato «Dalle donne!» Lui sorrise e disse «Sbagliato! Perché pensi che Frank Sinatra abbia avuto tanto successo allora?» «Che mi dici di Celine Dion?» insistetti io. «O di mia mamma, ad esempio?» Lui mi ha indicato di cantare davanti alla classe per dimostrare la mia attitudine e quindi io ho accettato. Ho marciato verso la lavagna, ma la mia determinazione ha avuto una crepa quando ho visto le facce sbalordite dei miei compagni che mi fissavano. Per la prima volta in vita mia mi sono sentita imbarazzata, ma era troppo tardi per indietreggiare. Ho cominciato a cantare, ma la mia voce tremava e per la prima volta calde lacrime di vergogna sgorgavano dai miei occhi. In quello stesso periodo i miei genitori cominciarono a lavorare con una giovane attrice che abitava poco distante da noi, si chiamava Sandra. La prendevano sulla strada prima delle esibizioni e la accompagnavano a casa dopo. Ma negli ultimi tempi papà aveva iniziato ad andare da Sandra senza la mamma. Il nome di Sandra fu uno dei tanti che mi fece sussultare dal sonno quell'anno. Cinzia, Mallory, Ava, Victoria, Natalie, Kendra. Papà cominciò a bere e mamma lo accusava di spaventarci. Non sapevo chi avesse ragione o torto, cosa fosse vero o falso. Sapevo solo che non ero ancora abbastanza grande per capire. Tutte le notti, prima di andare a dormire, piangevo, faticavo ad addormentarmi e di mattina a scuola non mi reggevo in piedi. Per tutta risposta, la comprensione della mia insegnante di storia si ridusse a questa frase. Sembra che Dina Karaoke si sia divertita a ballare fino a tardi ieri notte. Ma non basta come scusa per non fare i compiti. This is my song and no one can take it away. It's been so long, but now you're here, here to stay. And I wonder if you know what it means to find your dreams come true. This is my song, and no one can make it alive. It's been so long since someone could make me cry. And I wonder if you know what it means to laugh as tears go by. I miei genitori continuarono a lavorare insieme. A casa volavano gli stracci, ma sul palco non esitavano a prendersi per mano, sorridendosi per duettare. Io rimasi scioccata. Cominciai a pensare al karaoke come ad un mezzo diabolico per l'insincerità e l'ipocrisia degli esseri umani. Per questo abbandonai il sogno di cantare e trovai conforto nello scrivere. In quel periodo papà apprese che era stato costretto dal tribunale a lasciare la casa. Appena ebbe la notizia, gettò tutti i vestiti di mamma da una finestra, in segno di protesta. Non sapendo come oppormi, sono corsa in camera a prendere il mio diario. Alla luce della torcia ho scritto: «Nessuno potrebbe mai amarmi. A nessuno importerebbe nemmeno se fossi in fiamme». Con quest'ultima frase è come se mi fossi preparata per un destino molto peggiore di quello. A 16 anni, infatti, un giorno è successo. Mi sono svegliata nel cuore della notte, intrappolata in una stanza in fiamme. Le fiamme si erano propagate da una candela a un divanetto di vimini. Ho cominciato a tossire, ho svegliato mia sorella di 14 anni con la mia ultima aria. Oltre la porta ci siamo imbattute in un fumo così denso che sembrava solido. I nostri occhi si chiusero mentre i nostri corpi si giravano nell'oscurità, scontrandosi con pareti, mobili e tutto quello che c'era in casa. Siamo quasi soffocate in silenzio, mentre le fiamme ci frustavano. Con l'aiuto della mamma però siamo fuggite un minuto prima che le finestre esplodessero, inghiottendo il secondo piano. Sono stata in coma farmacologico per quasi 3 mesi, 5 volte più a lungo di mia sorella. Intorno al nostro capezzale di terapia intensiva, la nostra famiglia distrutta si riunì di nuovo. I nostri genitori si abbracciarono e cantarono per noi. Quando ripresi conoscenza al giorno del mio 18° compleanno, ho appreso che la maggior parte del mio corpo era stata gravemente bruciata. Non riuscivo a camminare, ero troppo debole per alzarmi. Eppure, la parte peggiore era che avevo perso la voce per una tracheotomia. Mi sono calmata solo alla vista di mia sorella, bendata ma al sicuro, e dei miei genitori, che per la prima volta dopo anni erano di nuovo una coppia. Il buco della mia gola dopo mesi si chiuse e le mie corde vocali tornarono ad emettere suoni. All'inizio la mia voce suonava rauca, ma nel giro di un anno si trasformò in una versione del suono più pieno. A causa dell'inalazione del fumo non riuscivo più a raggiungere le note più alte. Tuttavia, non passò molto tempo prima che la mamma installasse un karaoke nella nostra nuova cucina e mi passasse il microfono. Il microfono in mano ha rappresentato una specie di svolta per me. Per la durata di una canzone, ogni cellula del mio corpo si è sentita finalmente in un territorio familiare. La mia prima esibizione dal vivo, dopo essere sopravvissuta alle ustioni, si è svolta sotto una tenda nel cortile di un veterano di guerra. Era l'estate dei miei 18 anni e i miei capelli mossi stavano ricrescendo in riccioli selvaggi. Quando è stato il mio turno al karaoke, ho cantato Light My Fire dei Doors e ogni testa si è girata verso il palco. È stato facile per me canalizzare l'energia sfrenata di Jim Morrison, perché il karaoke mi aveva fatto diventare un'esperta di imitazioni. Anche se ero stata in coma, anche se le mie cicatrici erano più rosse del bicchiere di plastica che impugnavo nella mia mano rovinata, ero finalmente al mio posto. If much to say to you, and we couldn't get much higher. La storia di Dina Peone, che è stata appunto scritta di suo pugno, l'ha scritta lei per narrativli.com, l'abbiamo trovata proprio lì su quel sito che racconta storie, testimonianze, e spesso da lì noi prendiamo a piene mani le storie che vi raccontiamo. Se volete saperne qualcosa di più, andate magari sul nostro sito Linee d'Ombra, sulla pagina, insomma, sulla nostra pagina di Linee d'Ombra sul sito di Radio 24, oppure andate sul nostro profilo Facebook Linee d'Ombra, e lì Anita mette sempre qualcosa in più rispetto a quello che io vi racconto. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Sono partiti fortissimo qui a Linee d'Ombra i diari delle ripartenze, le storie che ci state mandando, in cui ci raccontate come siete ripartito, che cosa è ripartito della vostra vita. Magari alcune cose non si sono interrotte, magari altre hanno appunto continuato il loro percorso quasi intatte, soprattutto quelle che insomma facevamo da remoto, per cui non c'era bisogno di una compresenza in loco insieme a qualcun altro. In generale le cose solitarie e personali insomma si sono quasi, non si sono fermate, e invece in questo caso no, questa è stata veramente una ripartenza vera e propria, quella che stiamo per raccontarvi, che ha a che fare con non solo con il ricominciare a fare una cosa, ma con il fare una cosa che tutti quanti aspettavamo quando eravamo chiusi in casa. Tutti quanti sognavamo un prato, un pezzo di campagna, il mare, e alcuni invece sognavano la montagna. Ieri ho calzato gli scarponi, dopo 2 mesi. Un tempo non così lungo dall'ultima volta in cui sono stato in montagna, ma la distanza emotiva è stata di gran lunga superiore. Il coronavirus ha segnato uno spartiacque. È stata la prima uscita con la mascherina. Passo dopo passo è diventata una seconda pelle e mi ricordava che non si può abbassare la guardia nemmeno in mezzo alla natura. I percorsi di montagna solitamente non sono affollati e per correre meno rischi ho scelto una mulattiera di quelle belle larghe. Ma c'erano comunque altri camminatori e ciclisti, molti senza la mascherina. Non ho camminato con l'usuale leggerezza d'animo che mi accompagna verso le cime. Sono stati passi guardinghi, in perenne stato di attenzione a captare rumori di passi altrui dai quali tenermi alla larga. Il piacere che prima della comparsa del virus solitamente provavo nell'incrociare altri camminatori e nel poter scambiare un fugace buongiorno è diventato timore che le parole altrui potessero trasmettermi il virus. Sono stati passi faticosi, quasi che la paura, se non l'angoscia che aleggia ovunque in queste settimane, avesse appesantito il mio andare, atrofizzato i muscoli e arrugginito le giunture. Immaginavo sarebbe stato un fluire naturale riprendermi qualche respiro di libertà dopo 2 mesi di vita quasi totalmente casalinga, e invece così non è stato. Ho sentito il bisogno di reimparare a camminare, non solo in montagna, anche nella vita. Mai come ieri ho prestato attenzione al mio respiro. Di suo, in salita si piega su se stesso, si fa piccolo, corto, affannoso. Con una vita di camminate in montagna è diventato un automatismo respirare invece a pieni polmoni, inalare aria assaporandola e traendone un godimento, e ieri invece è stato diverso. Sebbene io abbia tenuto il naso fuori dalla mascherina e l'abbia coperto solo quando incrociavo qualcuno, ero timorosa di respirare. L'aria nelle città si è fatta più pulita e godibile, ma paradossalmente l'apertura dei polmoni sembra concessa solo in casa, mentre fuori delle mura domestiche il respiro è represso, dentro la mascherina o nell'apnea che cerca di evitare il contagio. Da atto involontario è diventato un'azione consapevole. Il respiro è portatore di vita, ma mai come in questi ultimi 2 mesi la vita l'ha minacciata. Tra i larici e gli abeti del bosco, nei pascoli che la primavera chiama nuova vita, nel vento che soffiava sulla cima, sentivo il respiro della montagna e il suo invito a spalancare i polmoni e ad abbandonarmi fiduciosa al respiro, perché c'era lei a tenermi per mano. What do you want was never answered, then some things were handed out. We got weird and fake instructions, but somehow we planned around. Oh, then we got a nervous baby, I don't have a heart like you. And so we listen now with nature, we're just loud and up and ran. And I know I shouldn't be here, but I want to be your man. Oh, suddenly I'm lost, but I just want to be a part of you. And then so suddenly we are gone, looking out for some way. You and I would belong on this wild and wonderful trail. You're just a singer wanting silence. I just have illegal thoughts. I will kill you if I take you, but now this is not enough. Oh, there will be a moment when I ask you to believe in love. And I could probably be patient, but we just don't have a hell of a lot of time. It's getting light and I just want you in the night. Oh, we will all be caught and they won't let me hang around with you. Then so suddenly we are gone, looking out for some way. You and I will be long on these wild and wonderful trails. I could just leave tomorrow, but baby, letting you go. All these songs would be just of sorrow. And we have no idea, but then what else do we know? We let it out to let it ride. And we are winners going out there, and we're stealing dreamy thoughts. They will heal you when you find them, and it's never just enough. Oh, then we get all nervous, baby, I don't have a plan, do you? Mandateci i vostri diari della ripartenza a lineadombra@radio24.it. Vale anche se non siete ripartiti ma siete partiti ex novo, con una nuova idea, una nuova attività, una nuova vita. Meglio ancora, è una partenza e non una ripartenza. Andiamo avanti, continuiamo a raccontare la nostra storia seriale. Invece stiamo andando verso la fine. Questa settimana chiudiamo la storia che Mauro Pescio ci ha raccontato passo passo, la storia incredibile di questo giovane uomo che letteralmente sopravvive al tentativo di omicidio da parte del padre e sopravvive anche all'omicidio della madre, sempre da parte del padre. In un attimo rimane orfano di madre e con un padre in carcere che ha cercato di ucciderlo. La sua storia la stiamo raccontando grazie a lui, come avete sentito, con la mia voce, non con la sua. Ma Mauro a un certo punto ha incontrato anche la sua compagna, la sua attuale fidanzata, e ha chiesto a lei che cosa è significato per lei e come vive questa situazione. Posso fare delle domande anche a te? Visto certo. Che ci sei, ne approfitto. Certamente. Quando lo hai saputo? Cioè di tutta la sua vicenda familiare? Sì. Quando lo hai saputo? E poi che reazione hai avuto? Io l'ho conosciuto che avevo poco meno di 20 anni. Mi ero trasferita dalla mia città del sud a Ferrara per studiare e vivevo in una casa per studenti. Quando ci siamo visti per la prima volta entrambi, abbiamo avuto il classico colpo di fulmine. Mi sono sentita subito attratta da questo ragazzo. Sembrava molto misterioso per essere poco più che un ventenne. Mi aveva molto colpito e avrei voluto da subito conoscerlo meglio. Avevo notato fin dalla prima volta quel taglio sul collo, però non ho fantasticato troppo su che cosa fosse. Al contrario, avevo pensato che un segno così forte sul corpo non dovesse per forza essere la sua carta d'identità. Mi sembrava più interessante che facesse amicizia con tutti e tutti sembravano essergli amici. Con il passare dei giorni, ma nemmeno troppi, siamo diventati amici anche noi. Dal primo giorno che abbiamo avuto l'occasione di parlare ci siamo avvicinati moltissimo. E una sera, eravamo nello studentato, mi ha detto: Alessandra, io effettivamente ti devo raccontare la mia storia. Eravamo noi due da soli. Aveva quasi paura a parlare. La voce gli tremava. Si vedeva che faceva un enorme sforzo, ma anche che lo voleva fare. Ci è voluto un po' di tempo prima che mi dicesse tutto. Forse era preoccupato di essere giudicato da me o di perdere un'amicizia. Quando ha finito di parlare, ha fatto una pausa e mi ha domandato: adesso che sai tutto, come mi giudichi? Io avevo già deciso tutto. Mi era piaciuto moltissimo che avesse scelto me per aprirsi, per condividere la sua storia tragica. Mi fece una enorme tenerezza e scatenò il mio istinto protettivo. Da quel giorno lo volevo a tutti i costi ancora più vicino. Volevo sostenerlo anche perché vedevo che lui mi cercava e cercavo quella confidenza, quella comprensione che io gli avevo dimostrato. Ma c'era per entrambi uno scoglio da superare. Entrambi in quel periodo eravamo fidanzati con altre persone. Ma sapevo che la ragazza con cui stava si faceva abbastanza i fatti suoi, così come il ragazzo con cui stavo io, e molte volte ci ritrovavamo io e lui a passare le sere insieme, piuttosto che ognuno con i propri fidanzati. È E grazie mille anche ad Alessandra che ci ha raccontato la sua versione. Mauro, quando raccoglie le storie dal vivo, come ha fatto in questo caso, non si risparmia e trova chiunque abbia qualcosa da dire, qualcosa da aggiungere in più alla storia che stiamo raccontando. Quindi grazie a lui per il suo lavoro, grazie a Alessandra, grazie al suo compagno per la storia che ci sta raccontando. Io ringrazio invece chi manda in onda Linee d'Ombra come sempre tutti i giorni: Anita Panizza, Paolo Corleoni, Luca Micheli e di nuovo Mauro Pescio. Noi ovviamente ci sentiamo domani. Voi mandateci le vostre storie, le vostre storie di ripartenza, i vostri diari di ripartenza, oppure le vostre storie da Linee d'Ombra. Noi torniamo domani dopo il GR. Adesso sentiamo il GR e poi torniamo domani puntualissimi a raccontare storie. Che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!